Messo così, messo con chi stai, con chi vuoi, con lei vorresti, prima o poi, finché dai, ma dai, non l'avresti mai detto, mai un giorno in cui nascondi almeno parte di un difetto. Quando mai racconti quel che fai, ti stressa pensare che qui nessuno si interessa, dove vai, a dirlo e per dirlo ce ne vuole, chi vuole interessarsi riesce a farlo in due parole, come stai? Messo così, messo con chi stai, con chi vuoi, con lei vorresti, prima o poi, finché dai, ma dai, non l'avresti mai detto, mai un giorno in cui nascondi almeno parte di un difetto. Quando mai racconti quel che fai, ti stressa pensare che qui nessuno si interessa, dove vai, a dirlo e per dirlo ce ne vuole, chi vuole interessarsi riesce a farlo, non sai chi vuoi, con lei vorresti, prima o poi, meglio prima di noi, prima di tutto tu, qui non puoi, tu non puoi, pensare di meritarti questa cosa. E tu non puoi pensare che tutto giri intorno a noi. Ma chi vuoi? Con lei vorresti prima o poi, meglio prima di noi, prima di tutto tu, qui non puoi, tu non puoi pensare di meritarti questa corte. Tu non puoi pensare che tutto giri intorno a noi. Sei cavaliere? Diciamo che sono il mio mestiere. Non è che sei qui solo per dovere. Oh no, piuttosto per vedere. Che cosa? Qualsiasi, chiunque, non so, ma pare che poi qui non si arrivi al dunque. Che so, è così un po' ovunque. Capita. Parcheggi fuori posto? Che c'entra? Non so, forse sta tipa è troppo lenta. Attenta, la noia si incrementa. La voglia si incrementa. Se la punta si presenta, la mia punta si incrementa. Cioè, scusa? Oh, chi mi accusa? Che so, io non di certo, ma hai la coda di paglia. Mi offendi? Oh. Attendi, pronto, chi è? Ti pensi, ti cerchi, se c'hai soldi e non li spendi. Ti spendi? Stipendi? Ma quali? Fiscali? Sti giovani imprenditori tutti uguali. Oh, pensano solo ai soldi, al sesso, al successo. E con questo? Basilio, sii onesto. Non sai chi vuoi, con lei vorresti prima o poi, meglio prima di noi, prima di tutto tu, qui non puoi. Tu non puoi pensare di meritarti questa corte. Tu non puoi pensare che tutto giri intorno a noi. Ma chi vuoi? Con lei vorresti prima o poi, meglio prima di noi, prima di tutto tu, qui non puoi. Tu non puoi pensare di meritarti questa corte. Tu non puoi pensare che tutto giri intorno a noi. Sono viaggi, neuroni come ostaggi, che subiscono pestaggi in più passaggi. Ma dipende da chi ingaggi. Paggi, medioevo e sgaggi. Tutti sti miraggi forse sono dovuti ai raggi. Gamma, ultra, urta chi ti insulta. Dici, pensi, ipotizzi, che mai realizzi? Spazi, spazzoli e ringrazi. Con tutti questi vizi non si sa quando finisce, quando inizi. Riposi? Sì, mentre tu posi. Esponi cosa che la tua scoliosi. Nevrosi? Merdosi. Alitosi. Odore. Troppo sgradevole il tuo odore. Dicevi? Io che niente, io pensavo che... Ancelle, corti e damigelle. Stupri le donzelle, poi ti visiti le celle. Bravo sto ribelle. Bravo sto ribelle. Non sai chi vuoi, con lei vorresti prima o poi, meglio prima di noi, prima di tutto tu, qui non puoi. Tu non puoi pensare di meritarti questa corte. Tu non puoi pensare che tutto giri intorno a noi. Ma chi vuoi, con lei vorresti prima o poi, meglio prima di noi, prima di tutto tu, qui non puoi. Tu non puoi pensare di meritarti questa corte. Tu non puoi pensare che tutto giri intorno a noi. Per il 2000, yeah, per il 2000, Fabri, Fidda, Turi, Fritz, Fede, Luigi, universalmente potenti, elevati, all'ennesima potenza, e tutte queste minchiate, vai! No, mi auguro che non si sentirà tutta questa porcheria.